quest'ora i colleghi scordati li ho già, chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia, ah, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre che avrò per raccontare a chi non lo sa quel che è solo normalità. Ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me, e loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica, la la la. Bambola avvolta nel tulle già messa via, di tanti bei sogni la musa. Ghibli che soffia dietro a una porta chiusa. Ah, mi sento fradicio di magia, ma forse quest'ora siamo già fuori orario, però un pediluvio mi farò. C'ho qui un bel talco da miliardario, la la la, la la la la la la. Se capita, chissà, se capita un po' di classe anche per me. Ho qui un bel talco da miliardario, la la la, la la la la.